Torniamo a occuparci di migrazioni e ovviamente un tema che è tornato prepotentemente al centro della stampa, dell'informazione per i naufragi, insomma, degli ultimi giorni, e in particolare i quotidiani quest'oggi si soffermano molto sui rimpalli di responsabilità avvenuti nel soccorso dei 100 migranti al largo di Misurata. Per capire meglio come funziona anche il sistema dei soccorsi, le responsabilità e appunto le procedure, noi siamo al telefono con Andrea Pappalardo, esperto di diritto del mare, che saluto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità di intervento. Ecco, la prima cosa che le chiedo è se si può spiegare, insomma, in sintesi agli ascoltatori e ascoltatrici come funziona in questi casi, cosa dice la legge e le leggi, anzi. Possiamo iniziare col dire che il principio base evidentemente è quello di un obbligo di soccorso, di salvaguardia alla vita in mare, principio che appartiene, credo, no, non soltanto alla legge, ma al buon senso, alla consuetudine, alla morale e quant'altro. Questo è evidentemente il faro che deve ispirare qualunque tipo di azione, da un lato. Da un altro lato, un altro cardine della normativa, del cui dettaglio ci addentreremo a breve, è quello di una necessaria collaborazione tra autorità e stati costieri. Dico questo perché evidentemente quando c'è un pericolo, sia grave ed imminente o anche soltanto potenziale, in mare, quindi quando c'è un distress, termine che oramai è noto all'opinione pubblica, in mare difficilmente è soltanto uno Stato di essere occupato, soprattutto quando si è nel contesto di flussi migratori via mare, quindi diciamo da uno Stato all'altro, se non da un continente all'altro come quello che ci occupa. Dico questo perché qualunque tipo di risposta non può prescindere da questi due fari. Andando un po' più nel tecnico, qualunque Stato costiero che abbia aderito alle principali convenzioni internazionali in materia ha l'obbligo di dotarsi di strumenti, attrezzature, equipaggiamenti, personale, navi, affinché possa presidiare la cosiddetta zona SAR, dove SAR sta per Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso. In altre parole, una zona di mare nelle quali poter portare in essere operazioni di ricerca e soccorso di persone che abbiano un pericolo. Il punto qual è? Che non sempre gli stati sono in grado. Se consideriamo la situazione attuale, ad esempio, per motivi di note condizioni di stabilità politica, la Libia non è in grado di assicurare questo tipo di servizio, per cui se si verifica un evento SAR, quindi se una situazione di pericolo in mare in una zona che sarebbe di competenza dal punto di vista della ricerca del soccorso dello Stato libico, ammesso che possiamo parlare dello Stato libico, ecco che le autorità non sono in grado di poter assicurare questo servizio. Complemento di questo discorso è che le operazioni di soccorso devono obbligatoriamente perfezionarsi con lo sbarco delle persone salvate o soccorse in un luogo sicuro per il quale si deve intendere un luogo dove le persone non debbano temere rischi di incolumità, discriminazioni, violenze, persecuzioni e quant'altro. Questo è un altro elemento che fa sì che non tutti gli stati possano essere considerati come idonei per poter non solo condurre ma anche portare a termine sul proprio territorio su queste operazioni di sbarco. Questo per dire cosa? Per dire che evidentemente bisogna collaborare tra stati, a maggior ragione con quegli stati che sono in grado di poter erogare questi servizi e garantire uno sbarco in luogo sicuro. Evidentemente, se parliamo del Mediterraneo centrale, gli stati frontisti o comunque gli stati che sono chiamati per posizione geografica a supportare questi tipi di operazioni sono Malta e l'Italia. A questo punto cosa accade? Accade che nasce un rimpallo dovuto a diversi motivi. Proverò a essere il più possibile sintetico. Malta ha una sua zona SAR, quindi ripetiamo, una zona di cerco soccorso particolarmente ampia a fronte di un territorio evidentemente piccolo, il che fa sì da far nascere tutta una serie di problematiche legate alla possibilità di poter far sbarcare ad esempio centinaia o migliaia di naufraghi, persone in soccorso sul proprio territorio. Questo non per spezzare la lancia a favore, soltanto per fornire un dato oggettivo che dal punto di vista di Malta rende le operazioni più complicate o pone alcuni ostacoli affinché possa in ogni momento soccorrere. E questo è il motivo per cui storicamente l'Italia Italia per una vecchia, antica, riconosciuta capacità nautica, per una superficie territoriale più ampia, è sempre andato in soccorso anche nelle zone di ricerca e soccorso non prettamente italiane, quindi ad esempio maltesi o anche libiche. Questo è andato bene fin quando evidentemente non sono state alzate delle barriere dal punto di vista politico, come sappiamo, barriere che sono evidentemente che non nascono oggi, ma che sono irrobustite oggi, diciamo così, nascono negli ultimi anni. Quindi quella collaborazione che la legge, meglio, le convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare impongono agli stati frontisti, agli stati costieri, ecco che vengono in qualche modo indebolite da una pressione politica che può andare non esattamente in quella direzione. Ascoltando le sue parole mi sono sorte due domande. La prima è: perché è stata riconosciuta recentemente, tra l'altro, la zona SAR libica se non ha le caratteristiche che ci descriveva? E la seconda, su i rimpalli di responsabilità, se non si rischia di incorrere nell'omissione di soccorso? Corso. Partiamo ovviamente dalla prima, è un'ottima domanda. Se non sbaglio, nella scorsa estate fu notificata all'IMO, International Maritime Organization, l'iscrizione della zona SAR libica tra quelle degli stati che affacciano sul Mediterraneo. La normativa impone che per poter dichiarare la propria zona SAR libica bisogna, come dicevo prima, avere mezzi per rispettare questi obblighi e quindi adempiere agli stessi. La normativa si ispira ad un obbligo di collaborazione. In qualche modo bisognerebbe far sì che gli stati riuscissero a cooperare tra di loro e a far sì che si possano definire zone SAR in misura tale che dove non può intervenire qualcuno, quindi uno stato, intervenga un altro. Credo, ma questa mi avventuro in una riflessione di carattere più politico internazionale, se posso permettermi, credo che ci sia a monte una regia politica europea nel voler far sì che venisse riconosciuta una zona SAR libica per poter in qualche modo battere la strada e delegare alla Libia stessa tutta una serie di operazioni che altrimenti per forza di cose dovrebbero ricadere soltanto sulle spalle degli stati europei. Questo potrebbe essere una possibile chiave di lettura, un modo di decifrare il fenomeno e quindi dare una risposta o una possibile risposta o qualche elemento di risposta alla sua domanda. In questo senso vanno anche gli investimenti che ci sono stati, per quanto a oggi non i fatti dicano che non diano nessun frutto, da parte dell'Europa e l'Italia stessa alla Guardia Costiera Libica donando unità navali e quant'altro, ma siamo ben lontani da rispettare quelli che sono i canoni, i criteri, gli obblighi di diritto internazionale in materia, perché i fatti questi giorni anche dimostrano come purtroppo centinaia e centinaia di persone continuano a partire e continuano a morire anche per incapacità dello Stato libico, delle autorità libiche di poter assicurare il servizio SAR. Per quanto riguarda la seconda domanda, se il rimpallo di responsabilità possa far nascere qualche profilo di ancora una volta responsabilità dal punto di vista penale per missioni di soccorso. Beh, intanto, sebbene non sia questa la domanda, però mi permetta un inciso, ci sono delle responsabilità politiche epocali di fronte a questo che sta accadendo da parte dell'Unione Europea, non solo da parte dell'Italia. Per quanto riguarda il piano giuridico, sì, personalmente penso che ci sia assolutamente un tema di responsabilità penale per missioni di soccorso, perché se è vero che da un lato esistono dei principi di sovranità territoriale, se così come è vero che non esistano obblighi puntuali che impongano un singolo Stato in particolare, o se è difficile individuare, meglio così, ogni volta dei criteri che impongano un obbligo puntuale in capo a un singolo Stato di far sbarcare delle persone sul proprio porto, è anche vero che se torniamo a monte, quindi all'inizio di questo intervento, abbiamo detto che il primo faro ispiratore della disciplina di ogni azione deve essere quella della salvaguardia della vita in mare. Se i fatti dicono che invece le persone continuano a morire, beh, evidentemente non si può non prendere atto di questa contraddizione tra quello che accade e quello che invece la legge prevede come valore fondamentale, e di questi fatti qualcuno dovrebbe poter rispondere. Evidentemente l'analisi è complessa, però io non mi sento di dire che può finire soltanto, non può essere confinata soltanto su un piano di carattere politico. Penso che bisogna affrontare il tema della responsabilità penale per missioni di soccorso, nella migliore delle ipotesi, perché nel caso in cui ci siano delle morti, evidentemente ci sono anche altri i reati configurabili, non si può non aprire il sipario anche ad analisi appunto giuridico, responsabilità penali nei confronti di chi dovrebbe assicurare e non assicura la salvaguardia della vita in mare. Io la ringrazio. Sono io a ringraziare voi, vi auguro buon lavoro e un saluto a tutti i radiospettatori e radiospettatrici.